Linee d'ombra di Matteo Caccia. E Linee d'ombra, è quello che state ascoltando, è il piccolo gruppetto, il gruzzoletto dei 5 diari della quarantena che abbiamo raccontato durante la settimana. Ogni giorno ne raccontiamo uno, ogni giorno guardiamo in casa di qualcuno o stiamo accanto a qualcuno nella sua giornata che è così viziata come quella di ognuno di noi dalla situazione che stiamo vivendo. Oggi ve ne offriamo 5 tutti in una volta. Partiamo dal primo. Il primo è una storia che arriva da un paesino di provincia dove due sorelle, che sono relativamente anziane, sono circa 70 anni, nemmeno così tanta, una lavora ancora, una invece è in pensione, sono tornate a vivere insieme nella casa di famiglia. Mercoledì 25 marzo 2020. Siamo tornati insieme da qualche anno, io e mia sorella Giovanna. Abitiamo noi due nella casa di famiglia, una villetta a due piani con un fazzoletto di terra davanti, metà messo a giardino coi fiori, metà a orto. 70 anni, siamo ancora molto impegnate. Io, insegnante della scuola primaria, fino a qualche settimana fa ho supportato in attività curriculari le ex colleghe. Ho dato una mano ai ragazzi rom a scuola, faccio parte della corale parrocchiale. Giovanna, invece, è impiegata, dà una mano al CAV, sa fare lavori a maglia. I nipoti ci vengono a trovare saltuariamente, ma certo non ora. Siamo in quarantena per la pandemia da coronavirus, come tutti. Oggi ci siamo alzate alle 7 del mattino. Ho tolto l'allarme, ho aperto le finestre. Tè con la crostata alla marmellata di ciliegie che ho fatto ieri. Riprendo il lavoro a maglia e osservo il post-it dove ho scritto alle 12 collegarsi col Vaticano. Papa Francesco invita tutti i cristiani a pregare per l'Italia in emergenza sanitaria. Giovanna stira. Il nostro lavoro è interrotto da frequenti messaggi, WhatsApp. È un modo di comunicare con chi ci è amico e con chi ci vuole bene. Stamattina l'interesse e la discussione è stata provocata da uno dei video che girano su WhatsApp e che ventila l'ipotesi che il virus Covid-19 sia stato fabbricato negli Stati Uniti, disperso poi in Cina fino a provocare la nota pandemia che mette in ginocchio i sistemi sanitari del pianeta. Certo è verosimile che un virus possa essere costruito in laboratorio, il dubbio però può venire. Ma la verità non lo sapremo mai. Chi avrà il coraggio di ricercarla? Chi ne avrebbe i mezzi efficaci e inconfutabili? Abbiamo ammesso che noi due non disponiamo di materiali informativi per confutare seriamente queste informazioni, quindi il dubbio è legittimo. Non è una cosa impossibile da fare, tutt'altro. Da qui a dire che gli USA sono responsabili del contagio a noi però pare un po' grossa. Per fortuna è quasi mezzogiorno e il Pater Noster per l'Italia con Papa Francesco in diretta dalla Biblioteca Apostolica ci distoglie dalle nostre elucubrazioni sociopolitiche. Ma ai posteri l'ardua sentenza. Noi due, che prima ci parlavamo relativamente poco per gli impegni di ciascuna, ora siamo più pronte al dialogo. Ho riscoperto una sorella con cui è piacevole conversare. Commentiamo insieme le notizie, ognuna dice il suo parere e mi accorgo che, in certe cose, lei è più saggia di me. Io mi credo sapiente, ho studiato di più di lei, dopo le superiori ho preso la laurea, ma lei è più saggia, sa dire la parola giusta al momento giusto. Ciao, Virginia. That's life! That's life! What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. Il prossimo diario invece arriva da Nizza, arriva dalla Costa Azzurra, dove una studentessa italiana è là, vive là, vive perché sta studiando appunto in quella cittadina, vive quindi sul mare, davanti al mare, ma in un appartamento di 29 metri quadri e non è da sola, è col suo fidanzato. Vi invio la mia personale visione della quarantena da studentessa italiana a Nizza. Alle 8.30 mi sveglio, faccio colazione e apro tutte le finestre. Qui in Costa Azzurra la primavera si fa sentire ed entra con prepotenza dentro il nostro piccolo appartamento di 29 metri quadri. Da quando il confinamento è stato annunciato qui in Francia, la mia prima preoccupazione è stata trovare un modo per sfruttare al massimo il mio mini balcone di 20 centimetri. Sarebbe stata l'unica maniera di approfittare di questo tempo magnifico. Dopo due giorni di riflessione mi sono addentrata nella cantina e ho trovato, nel cumulo di oggetti, un piccolo seggiolino che era perfetto. Da quel momento ho appuntamento al sole dalle 9 alle 12, finché poi lui non si sposta. Abito con il mio ragazzo, quindi è stata necessaria una ripartizione degli spazi al fine di sopravvivere a questa esperienza. Trattandosi di un bilocale, la scelta è stata molto semplice, una stanza ciascuno, così ognuno mantiene la propria intimità. Alla fine una specie di routine si è creata: colazione, esperienze culinarie durante la mattinata, degustazione delle ricette, pausa, studio per gli esami di cui ancora non so niente, non so se saranno spostati, annullati, modificati, nulla. Faccio un po' di sport, anche se devo dire la verità, riuscire a eseguire gli esercizi in uno spazio così limitato è veramente una grande sfida. Gambate contro lo stendino, manate contro le pentole, ma la prova bikini è sempre in agguato e dicono che fa bene al morale. Alle 7 si ricomincia a cucinare, alle 8 c'è l'appuntamento serale dove tutti applaudiamo e ringraziamo il personale medico che ogni giorno, invece di stare a casa stravaccato come noi, lavora ore ed ore di fila per garantirci un futuro migliore. Dopo gli applausi c'è la riunione condominiale, fuori dalla finestra, dove ognuno si racconta un pochettino la sua giornata, le sue angosce, i suoi pensieri. Nel mio palazzo mai nessuno si era parlato. Da quando sono qui posso dire di riconoscere solo 5 o 6 persone su un totale di 50 appartamenti circa. Questa situazione sta facendo forse cambiare le dinamiche sociali, chi lo sa. Durante queste giornate sto avendo modo di riflettere molto sull'impatto di questo contesto, sul nostro modo di comportarci. Devo dire che personalmente la sto prendendo piuttosto con filosofia. In fondo c'è di peggio nella vita di rimanere a casa ad oziare. Certamente ci si annoia, ma è il momento di fare cose che di solito non avremmo il tempo di fare. Firmato Carlotta Rosai, 23 anni, studentessa di psicologia a Nizza. Dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. In casa e non solo. I diari della quarantena ci raccontano quello che accade nelle case, come abbiamo appena sentito, ma ci racconta anche cosa accade là fuori, quando delle persone fanno un mestiere, fanno un lavoro che le porta fuori da casa. In questo caso siamo con una guardia giurata, è notte, e quello che succede ce lo racconta direttamente il suo diario. Caro Matteo, sono una guardia giurata del nord della Toscana. Ti voglio scrivere una piccola storia che in questo momento merita di essere raccontata, secondo me. La mia storia riguarda le difficoltà che molti anziani stanno vivendo in questo periodo di emergenza Covid. Il fatto di cui vi voglio raccontare è successo la scorsa notte durante il nostro servizio di controllo sul territorio. Le nostre pattuglie sono in costante collegamento fra di loro e con la nostra centrale operativa, che dispone e dirige la nottata. Circa alle ore 3:30 del mattino un collega richiama la centrale avvisando di aver incontrato per strada, in un posto fuori mano, naturalmente isolato, una persona anziana che risultava smarrita, confusa e spaventata. Il collega chiede l'intervento delle forze dell'ordine per cercare di capire le generalità e la provenienza di questa persona. Chiedere documenti o generalità fuori dalle proprietà private da noi controllate non è consentito, pertanto si rendeva indispensabile l'intervento di un pubblico ufficiale. Nell'attesa che qualche pattuglia della polizia arrivasse, il mio collega rimaneva in costante contatto con la centrale e naturalmente il collega della zona vicina si offerse immediatamente per un supporto, ma l'anziano si dimostrava tranquillo, cooperativo, per quanto credo che non si rendesse assolutamente conto di chi lo stesse aiutando e perché.

Ogni settimana vi forniamo queste 5 piccole pagine, queste 5 piccoli pezzi di vita che raccontano i diari della nostra quarantena. Sono tutti i giorni su Radio 24 durante Linea d'Ombra dalle 15 alle 16 oppure qui in un blocchetto da 5 puntate. Ci sentiamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì appunto alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!